TV Canale 10. Hola, sei chiusa alle 10, prego. Ne pensi là, pare. Chi è avanti? Chi è avanti? Sale! Ciao Eugenio! Mi è Eugenio mio! Già era una di 60 inditi! Ciao Eugenio! Che anni ce l'ha l'Andrea? Ieri stavo parlando con uno lì della zona tua. Sì, zona Faro, dai, zona Faro. Uno della zona Faro, dove c'è il faro? Sì, dove c'è il faro? Lì c'è l'antenna. Si chiama Claudio. Vabbè, anche stamattina ci siamo sentiti e ci siamo salutati. Infatti ho fatto anche il tuo nome, ma forse lui ti conosce però. Penso di sì, perché per come mi ha risposto ho capito che probabilmente ti conosce. Ma se non stai entrando più nessuno, in PMR siamo, poco fa c'era Claudio, adesso deve essere chi è andato a portare il cane. C'è Gianni, non più lui in questo momento, Luca c'è anche l'altro Luca, insomma in PMR siamo, tutta la sera. Ok, ciao G, alle prossime, fate sentire però, rimetti la stazione in casa così ci sentiamo. Ok? Ciao, ciao G, ciao, alle prossime, ciao. Chi è verso 10, avanti? Buonasera a tutti.